Io non so se tra le pallide rocce il tuo sorriso m'apparve, o deo dalle fulvide chiome, o cipresso al sole. Io non so se tra le pallide rocce del tuo sguardo riposavano l'incanto e la giovinezza. Io non so se tra le ruvide guance del tuo sguardo riposavano gli addii o la pietà. Io non so ringraziarti e non so la tua dimora, e non so se questo grido ti raggiunga. Io non so se l'infante che ti cerca è la vecchia che ti tiene in balia. Io non so se la sponda è larga o l'infante è morta. Non so, non vedo, non sono per te che sei, che vivi, che vibri, che rimani al di là della dolcezza. Io non suonerei le sonaglie se sapessi che tu entri nel cuore con facilità. Io non suonerei questo ballo se sapessi che non sono sola. Io non suonerei nessun ballo se tu cantassi. Non si piange se la gioventù si è fuorviata, non si ride se il padre è un nobile disoccupato, non si ride se la gioia è una giostra disoccupata, non si ride e non si rimpiange e non si sa se piangere o ridere, non si fa il bidello ai grandi, non si rompe la coda ai piccoli, si lascia stare tutto così come potrebbe essere, non cadere. Non vincere, non perdere, non stancare, non prorompere risa solenni, non spanderti ribelle. Addolorata tu addolcisci, amante del potere, ti indurisci.